Cantine di Franciacorta. Benvenuti Tappa Monticelli Brusati, oggi presso la cantina Castelveder, azienda gestita da Camilla Alberti insieme ai nonni che hanno cominciato l'attività 35 anni fa, una passione che genera oggi 80.000 bottiglie, in grandissima parte Franciacorta. Camilla Alberti, giovane mamma e imprenditrice, ci racconta del connubio vino e cinema per il festival Franciacorta in Cantina. Puntiamo molto al comunicare il vino non soltanto attraverso la degustazione, che è chiaramente fondamentale, ma anche attraverso suscitare emozioni nei nostri visitatori, quindi sarà possibile assistere a delle proiezioni di cortometraggi che supereranno un concorso che abbiamo indetto insieme alla Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia, e nel contempo visitare la struttura, l'azienda ed assaggiare i vini. Questo ci piaceva, poter accomunare due arti così particolari e affascinanti come il vino e il cinema. Un saluto e alla prossima tappa. Vi aspettiamo al Festival Franciacorta in Cantina il 18 e il 19 settembre 2010.